Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Pomeriggio, non sono certamente pochi gli argomenti da affrontare oggi in questo lunedì, a cominciare dai rinvii per maltempo, passando attraverso la crisi ormai conclamata e di rara profondità vista la storia della Juventus, al fatto che l'Inter, comunque approfittando anche del rinvio del Milan, è tornata molto in solitudine al comando della classifica, ma poi ce ne sono tante altre da scoprire. Di sicuro i quattro rinvii tra sabato e domenica non sono un record, perché ce ne erano stati cinque per neve in annate peraltro lontane, pensate un po', il 1933, il 52, il 56 e il 57. È passato mezzo secolo, è abbondante, però insomma, in quel tempo erano addirittura saltate più partite. La differenza, e forse il parallelo più appropriato, è quello con l'Europa, dove non c'è stato alcun rinvio in Inghilterra, alcun rinvio in Spagna, dove peraltro il clima era più favorevole, nessun rinvio in Germania, dove era peggio che da noi, e un solo rinvio in Francia. Si è giocato a singhiozzo soltanto in Olanda, 5 partite rinviate su 9, e in Belgio, che insomma, diciamo che hanno più o meno eguagliato la situazione italiana. Molti gli interventi su questo argomento, per esempio il direttore generale della Lega Beretta, il presidente degli allenatori Renzo Olivieri e poi altri personaggi, il sindaco di Genova per esempio, che sostiene che la partita si poteva giocare, il divieto è arrivato alla prefettura, a Bari pensano e cominciano anche a dire in realtà che il rinvio di Genova-Bari è stato dovuto al fatto che i genovani avevano fuori un po' di titolari ed erano anche stanchi per la partita, tra l'altro persa, la battaglia interminabile contro il Valencia di giovedì sera. Insomma, gli argomenti, ripeto, non mancano. Prima dei vostri interventi in diretta, che potete cominciare a prenotare sin da subito all'800 24 0024, il numero consueto, andrei subito sulla Juventus e sentirei il riassunto dei due interventi principali di ieri di Ferrara. Se avessi già trovato il problema, probabilmente l'avremmo anche risolto, quindi evidentemente non è così, ed evidentemente non è che ci sia una cosa in questo momento che tu dici no, è questa, ed è assolutamente da cambiare, da invertire. Se ci fosse un solo problema, probabilmente lo avremmo anche trovato. Evidentemente c'è una serie di problemi. Una serie di problemi non da poco. Ho analizzato tutto ieri, ha detto stamane Ferrara. Oggi sono a Napoli per motivi molto importanti, quindi adesso preferisco parlare solo di questo, per il resto ci sarà tempo e modo di parlarne. Ferrara era in visita all'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, a cui era presente anche Cannavaro, dove per l'appunto la fondazione Cannavaro Ferrara sostiene due progetti. E Ferrara ha aggiunto ancora: quando uno viene in una struttura ospedaliera come questa si vede che i problemi sono diversi. Il mio lavoro è importante, molto importante, ma nella vita ci sono problemi anche più grandi. La seconda parte di Ferrara dedicata alla sua intenzione di provare a continuare a combattere. La stessa delusione chiaramente che c'è nei nostri tifosi, giustamente, e chiaramente anche all'interno dello spogliatoio, del sottoscritto, di tutto l'ambiente che vive un momento difficile. È innegabile, i risultati in quest'ultimo periodo sono risultati non all'altezza del blasone di questa società, e quindi è evidente che non possiamo che essere, insomma, in questo momento non contenti di sicuro. Periodo difficile, c'è la nave in piena tempesta. Secondo me, se restiamo uniti, possiamo venirne fuori tutti quanti insieme. Mi piace molto andare per mare e non l'abbandono io la nave. Se restiamo uniti, beh, questo fino a ieri poteva valere, poteva essere più credibile, non che adesso tutti debbano disgiungersi, ma insomma credo che la sconfitta, non dico definitiva, ma la sconfitta clou sia proprio quella di ieri, perché una sconfitta in casa meritata contro l'ultima in classifica, quando già tutti questi appelli, queste emozioni degli affetti, dei sentimenti e insieme del coraggio e della determinazione si erano sprecati negli ultimi giorni, significa che Il problema è davvero profondo. Non a caso, nel pomeriggio, leggo dall'Ansa, si svolgerà il CDA della Juventus che approverà il ritorno di Bettega in società con funzioni di uomo di collegamento tra squadra e dirigenza. La riunione che era stata convocata per la riduzione del budget successiva all'eliminazione di Coppa di Champions, che ha causato una perdita di 4 milioni e mezzo di ricavi, in realtà servirà a discutere anche la posizione di Ciro Ferrara e le eventuali contromosse, leggo dall'agenzia, in caso di fiducia a tempo. Ieri ha parlato a lungo anche il presidente della Juventus, Blanc, che ovviamente ha esposto il petto anche alle contestazioni più dure e come sempre eccessive. Questo vale per qualsiasi piazza italiana, mi pare che per la piazza torinese dell'uno e dell'altro colore, anzi bicolore, valga in questo periodo in maniera particolare. Sentiamo Blanc. La linea non cambia dopo qualche giorno, quindi la fiducia in Ciro, in suo staff c'è. Dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare un'analisi critica di ultime settimane e continuare a lavorare. Forse questa pausa arriva almeno per noi al momento giusto per riflettere, pensare bene e poi tornare con una convinzione, una forza, un morale superiore per portare a casa risultati diversi e più belli. Capisco pienamente i nostri tifosi che non sono contenti, arrabbiati, ho anche sentito quella che si diceva dentro lo stadio, da una o due delle curve, capisco tutto, il calcio è un mondo di passione, il calcio a Juventus ci sono grandi aspettative e quindi l'unica cosa che possiamo dire è che ci impegneremo di più e che analizzeremo bene quello che c'è da fare con Ciro Ferrara, con il suo staff, quindi con l'unità che abbiamo voluto dimostrare questa settimana e con quale andremo a lavorare nei prossimi giorni. Questo era un audio particolarmente significativo perché la colonna sonora sullo sfondo dava un'idea del momento difficile, per non dire drammatico, che la Juventus sta attraversando, che poi alcuni all'inizio e molti poi di questi signori si siano macchiati anche ieri di cori razzisti e abbiano messo in serio pericolo la disputa di Juventus-Milan sul campo di Torino, perché a questo punto esistono delle possibilità che il campo venga squalificato per la reiterazione di cori razzisti. Beh, questo la dice lunga, credo, sul reale tasso di affezione, no? nei confronti della Juventus, o perlomeno di questa versione attuale societaria della Juventus. Un altro allenatore ha parlato di Juve ieri e non lo ha fatto in prima battuta, ma a domanda ha risposto, e ha risposto in maniera significativa, come è giusto e inevitabile che sia. Si tratta di Ranieri. E lì bisogna vincere, per cui è normale. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, quello che dovevo dire l'ho detto, a chi di dovere, ma non quando sono stato esonerato prima. Allora, se vogliamo parlare di calcio, c'è da dire, cambiare il sistema di gioco non era facile, io l'ho detto, cerchiamo un vice Nedved, perché la squadra si ritrova con questo sistema di gioco, cambiare un vice Nedved, ecco che può fare buone cose. Non mi è stato proposto nessun vice Nedved, ho detto allora si prende Diego perché è uno dei campioni che mi avete proposto, prendiamo Diego, bisognerà cambiare sistema di gioco e ci vorrà del tempo per far capire ai ragazzi come ci si muove con una squadra col centrocampo disposta a rombo. Ci vorrà del tempo perché loro sono abituati a pressare, a stare stretti, compatti, e quando si cambia il sistema di gioco hai bisogno di determinati giocatori che capiscono quello che devono fare. Sicuramente io avrei incontrato le stesse difficoltà, sicuramente io sarei già stato mandato a casa, insomma, questo è il mio pensiero. Con la prima partitella tra la squadra. Beh, insomma, non gliele sta mandando a dire Ranieri in questo periodo, credo che sia profondamente umano tutto questo, alla luce di quello che Ranieri ha dovuto inghiottire negli scorsi mesi e a cominciare da inizio stagione, quando le cose andavano diversamente. Se è vero che la Juventus di un anno fa, a questo punto, senza aver speso questi 50 milioni di euro, aveva 6 punti in più ed era soprattutto qualificata per il turno successivo per gli ottavi di Champions League, avendo battuto due volte il Real Madrid. In realtà in giorni come questi gli aggiornamenti del traffico, delle strade, del meteo, della situazione sono il clou vero di ogni appuntamento e di ogni programma e trasmissione. Avete sentito, tra mezz'ora c'è il prossimo, prendetene buona nota. C'è già un ascoltatore in linea chiamato dalla provincia di Ravenna e si chiama Daniele, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, complimenti per la trasmissione. Senta, io le voglio dire una cosa, ieri le partite sono state sospese, secondo il mio punto di vista, per ghiaccio e anche per i furbi del quartiere, perché io sono convinto di una cosa, che il Genova non ha perso il vizio di fare i furbi, perché ieri mi trovavo per lavoro a Genova e le garantisco che la giornata era ottima, al di là del freddo che c'era meno 2 a mezzogiorno, però non era il freddo di essere a Milano, e il campo, a sentire dire la gente che era fuori, era in ottime condizioni. Non capisco perché hanno sospeso quella partita. Non sapete cosa ne pensa. Grazie, la penso, buongiorno Daniele, la penso esattamente come lei. La penso come lei, credo che qualcuno ci abbia marciato e qualcuno abbia fatto il furbo, credo. Questa comunque è, sì, senza questo commento aggiuntivo, ma insomma questa è l'opinione del sindaco, per esempio, che dice, Marta Vincenzi dice, sarebbe stato possibile giocare se dal mattino fino all'inizio della partita ci avessero consentito di lavorare per portare il Ferraris al livello di non pericolosità. È stato deciso però in un altro modo. E Genova non è stata l'unica città dove non si è giocata la partita. Non bisogna fare polemica più di tanto, d'accordo, ma è vero che, da un lato è vero un dato di fatto, che la decisione è stata presa dalla questura dopo un sopralluogo del GOS, Gruppo Operativo Sicurezza. Chissà quanto può essere tifoso o non tifoso il Gruppo Operativo Sicurezza, che aveva accertato lastre di ghiaccio presso alcuni ingressi dello stadio. Ma al di là di quello, rimane il fatto che non è poi così semplice in questi casi stabilire cosa è giusto fare, cosa è sbagliato, cosa non è una novità che noi andiamo in crisi come sistema paese, non solo come sistema calcio, no? Per pochi centimetri di neve piuttosto che per un pochino di ghiaccio. Certamente se uno ieri, la testimonianza sua è significativa, ce ne sono molte altre, se uno ieri era a Genova e vedeva che tempo faceva a Genova e che clima c'era anche come temperatura, beh, l'idea che sia stata rinviata una partita alle 3 di ieri, dopo che il maltempo era cessato da molto, ma da molto davvero, un minimo di sconcerto credo che lo possa provare. Luigi, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, le faccio intanto in anticipo gli auguri di Natale. Le volevo chiedere un suo commento su una mia riflessione sulla gestione di John Elkann e di Blanc, il presidente, che io personalmente ritengo una persona che di calcio ne capisca molto poco, e di base ritengo che l'errore della Juventus sia voler vincere a tutti i costi troppo presto senza programmare un futuro su però un allenatore di un certo livello, con una programmazione, perché io ho visto negli ultimi 3 anni sono stati presi 3 allenatori che anche dal loro stipendio si capiva che non erano all'altezza per gestire una società con mire di ritornare grande. Ma io sono d'accordo con la prima parte del suo intervento, sulla seconda un po' meno, perché mi pare che un allenatore poi vada giudicato su quello che riesce a realizzare col materiale a disposizione. Allora, a Deschamps cosa era stato chiesto? Di risalire immediatamente nella Serie B e di farlo possibilmente in maniera, se non trionfale, in maniera molto ma molto decorosa, insomma in maniera da Juventus. Mi pare che fosse stato fatto. Credo che a Ranieri fosse stato dato oltre che l'incarico, ma evidentemente credo che che l'obiettivo affidato gli fosse quello di far crescere ulteriormente la Juventus. Già non si era capito perché Deschamps non ha potuto continuare, dal mio punto di vista. Poi arriva Ranieri e mi sembra che con Ranieri comunque i progressivi salti di qualità, ma quelli ragionevoli, quelli che è lecito pretendere, calcolando che si parte molto dal basso, non dico dalle macerie perché le macerie sono quelle di oggi, ma che si parte molto dal basso. Questo tempo non c'è stato, tutto è stato fatto in funzione della fretta, dei proclami. Io credo che la cosa che oggi si sta ritorcendo in particolare contro questa società, poi non importa la personalizzazione di chi esattamente in società, ma insomma un pochino di tutti, sia quella di aver molto parlato, di aver molto promesso, cioè, ancora un mese fa, forse meno. Io credo che lei ricorderà che l'obiettivo, insomma, che la domanda che si ponevano pubblicamente era se l'obiettivo reale fosse di più vincere lo scudetto o vincere la Champions. Allora, vincere la Champions e poi vedere che fine ha fatto con il Bayern, insomma, sinceramente è un po' avvilente. Mentre vincere il campionato adesso, senza il disastro di ieri, sarebbe stato, a mio parere, ipotizzabile, ma seriamente ipotizzabile, perché poi non siamo che a dicembre, che è la sosta di fine anno. I campionati si vincono e si perdono in primavera, da sempre, e una Juventus che avrebbe potuto, potrà comunque, non dico allenarsi in Europa League, ma insomma tenere un minimo di condizione, far ruotare i titolari, dar soddisfazione anche ai panchinari con partite comunque di un certo prestigio, e puntare tutto sul campionato non è una brutta soluzione, mentre gli altri si giocano il dentro e fuori. Non è una brutta soluzione in ottica di campionato, evidentemente, ma se poi ieri ti arrendi come si è resa la Juve al Catania, allora anche questo diventa un obiettivo, non dico impossibile, ma molto difficile, e rende ancora più sbagliato, per non dire ridicolo, tutti i proclami precedenti di cui parlavo. Alfredo, Milano, buongiorno. Oh, buongiorno Garanzini, ma mi pare che abbia già risposto lei per in tutto e per tutto. Io sono juventino di vecchia data perché ho 74 anni e sono veramente avvilito. Oltretutto, vedere Ferrara che non ha il coraggio di dire, beh, insomma, non sono all'altezza, me ne posso andare. Tutte le partite che ha perso, le ha perse tutte, con l'uomo davanti alla porta che andava in porta e faceva il gol. Tutte le partite, sia con Napoli, sia con il Bayern, e ultima questa qui di adesso. Veramente, è sconvolgente vedere così, che un difensore che vuole fare allenatore non è in grado di mettere a posto la difesa. La difesa. È vero o non è vero? Sì, questo è un paradosso, è vero. Appunto, è proprio un paradosso. Però, ma che tutti quanti, anche adesso saltando di palla in frasca, tutti i politici un anno fanno il ministro dell'agricoltura, un giorno fanno cose terminate, ma possibile che il cretino sia solo io che dico, io non sono alla testa di farlo, arrendiamoci, andiamo via. Sì, oppure prima proviamo a rispettare le competenze, per l'appunto, no? Se mi intendo di agricoltura, perché mi devo mettere agli interni, se, eccetera, eccetera, eccetera. Mi pare che questo fosse il suo ragionamento. Quello di Ferrara, grande difensore in carriera, che non riesce ad attrezzare e a sistemare in particolare la difesa, è abbastanza grave. Ora, non dimentichiamo mai che alla Juventus manca il difensore di maggior sostanza e rendimento, che è Chiellini, e da quando Chiellini è uscito la difesa è una frana. Non si può dire però che prima fosse imperforabile. Io continuo a pensare che non sia stata una grande operazione il rientro di Cannavaro, e continuo anche a pensare che quando una società deve ricostruire, deve guardare al futuro, possa anche sbagliare degli acquisti di prestigio, perché Melo, Diego, eccetera, capita nel calcio di scambiare un ronzino per un puro sangue, no? Non, è sempre successo e succederà sempre, ma sbagliare i cavalli di ritorno, secondo me, è particolarmente grave, perché dei cavalli di ritorno si deve sapere tutto già. Magari bastava dare un'occhiata a Madrid. Se poi tutto questo è stato concepito come pare, come praticamente acclarato, se tutto questo è stato concepito in funzione del ritorno di un altro cavallo di ritorno che arriverà addirittura un altro anno, insomma, io credo che questa sia stata un'operazione davvero, davvero azzardata, e mi sembra che i fatti lo stiano dimostrando. Da Napoli ha chiamato Raffaele, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, innanzitutto le faccio tanti auguri per la prossima festività. Poi volevo chiedere una cosa, ma com'è possibile l'ennesima partita riubacchiata dall'Inter? Come giudica l'arbitraggio del signor Russo di Nola, che non ha fischiato contro a fuori della Lazio due calci di rigore che mi sembrano così netti, che veramente mi sembra strano che non l'abbia fischiato? Cioè, voglio dire, mi sembra che l'Inter sia la Juventus di alcuni anni fa, insomma, questo è il fatto. E poi volevo chiedere una cosa, l'arrivo possibile di Luca Toni a gennaio alla Roma può migliorare effettivamente l'attacco di questa squadra? Alla Roma, grazie, detto. E ascolto, sono in linea. Grazie. Allora, Luca Toni non lo auguro alla Roma in questo momento. Cioè, ho letto quello che ha detto una dichiarazione ufficiale del Bayern, non so dire se di Rummenigge, ma mi pare di Rummenigge, che ha detto: noi per Toni non chiediamo nulla, cioè, e qui se volete lo prendete, insomma, non in termini così offensivi, ma quasi, a parte che il contratto è altissimo, è molto alto, ma insomma non mi sembra in questo momento un grande investimento. Poi è chiaro che se invece sta bene, se arriva se torna con grandi motivazioni e se può soprattutto sostituire Totti nelle situazioni in cui Totti come ieri è costretto ad arrendersi, beh, allora è un'altra soluzione. Dire che sia una cosa proiettata, un'operazione proiettata nel futuro, non lo direi. Sulla prima parte non sono assolutamente d'accordo con lei, nel senso che io di rigori possibili ne ho visto uno e abbastanza netto, quello di Maicon, dove però effettivamente su un campo ghiacciato valutare la volontarietà o non volontarietà è difficile. Supponiamo che ci fosse quel rigore, a inizio partita ce n'era uno almeno altrettanto netto, se non di più, proprio su Maicon nell'altra area di rigore, quindi sinceramente non ho visto, nel caso di ieri non ho visto alcuna premeditazione arbitrale di avvantaggiare la capolista. Franco Mantova, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Mi fermo un secondo sulle dichiarazioni di Blanc, perché mi ha stupito all'inizio della sua dichiarazione il fatto che dica dobbiamo lavorare più. Non è sicuramente l'impegno che manca, mi sembra, ai giocatori né all'allenatore. E di solito ho lavorato per tanti anni in aziende private, quando arrivava un dirigente che diceva dobbiamo lavorare di più, era perché non aveva le idee chiare sui problemi, cioè sì. Lavorare di più, io direi dobbiamo lavorare meglio, ecco. Ma è indubbio che non si può lavorare meglio se nella posizione apicale di una società ci si mette un personaggio che non ha competenze di calcio. Sono d'accordo con lei, Franco, cioè il tempo poi alla fine è galantuomo. Ora nessuno discute il curriculum manageriale di Blanc e il suo passato sportivo, ma sportivo per l'appunto a tutto tondo, non specificatamente calcistico. Questa più passa il tempo e più la sensazione che questa sia una lacuna è oggettiva ed è confermata dalla stessa Juventus, perché il rientro in società di Bettega, che le ripeto dovrebbe essere ufficiale sin dal pomeriggio, proprio questa lacuna va a colmare, e cioè, detto in parole povere, l'incompetenza tecnica proprio di Blanc. Torniamo in onda con un paio di mail, sarebbero tantissime, ma cominciamo da queste due, anche perché sono brevi. Una è di Davide Cendron, che scrive: sbaglio, la Juve ha cominciato a perdere con il rientro di Del Piero? Beh, questa mi sembra una crudeltà inutile, nel senso che Del Piero non ha dato nulla oggettivamente alla Juventus in questi da quando è rientrato, però ha dato poco anche gli altri, mi pare, quindi insomma, ripeto, mi sembra una crudeltà eccessiva. Francesco Mignati invece scrive: ma che significa sconfitta meritata? Cosa che io ho detto prima. Catania ha fatto un tiro in porta in contropiede, ha vinto e basta, la sua faziosità ha fatto il suo tempo, come l'Italia, perché non si ritira? Beh, insomma, un giorno altro ci farò un pensierino, Francesco, però quando vedo le partite credo di essere ancora in grado di capirle. La Juventus di ieri nel primo tempo era sotto di un solo gol, non dico per miracolo, ma certamente approssimato per difetto, perché il primo tempo della Juventus di ieri è stato veramente raggelante, per impotenza, per improduttività, per fragilità difensiva, basti quell'uscita dal campo, quella cacciata dal campo ingloriosa di Felipe Melo dopo 32 minuti per dire che Juventus era nel primo tempo. E il Catania avrebbe potuto anche arrotondare se fosse stata una squadra, se non fosse stata l'ultima in classifica, avrebbe anche potuto arrotondare. Poi la Juventus è ripresa abbastanza bene verso la metà del secondo tempo, ha meritato il pareggio e a quel punto si è illusa di poter vincere la partita, come era, dal punto di vista del temperamento, come era giusto, anzi sacrosanto fare, ma proprio la sua fragilità attuale l'ha messa nelle condizioni di subire il gol della vittoria degli altri alla fine, che hanno meritato di vincere, perché per tutto quel secondo tempo, per quella metà di secondo tempo di sofferenza, hanno comunque gestito con calma il momento di inferiorità nella partita. Un momento di inferiorità che è stato più breve dei momenti di superiorità. Da qui la legittimità di una vittoria che nessuno ha messo in discussione. Agostino da Roma, buongiorno. Buongiorno Gigi, io ritorno un momento sugli stadi. Sì. E dico che sfortunatamente sabato è successo che sia Bologna che Firenze, gli unici due stadi monumentali italiani per cui non hanno la copertura delle tribune, sì, hanno determinato la impossibilità di giocare, soprattutto Firenze. Sì. Firenze con l'aggravante che poteva giocare la domenica, ma se non sbaglio un altro dirigente italiano del calcio italiano ha detto che non era possibile perché i suoi giocatori avevano già il biglietto dell'aereo per andare in Brasile. Questo io ritengo sia uno scandalo, perché chi gestisce una partita di calcio sa che si può giocare nelle 24 ore successive e quindi organizza la sua società perché questo si possa verificare. A Firenze, secondo me, domenica potevano giocare. Ma Agostino, io non lo so, io direi non darei patenti di colpevolezza o di responsabilità univoca ad alcuno in questa vicenda. Darei spiegherei tutto, ripeto, con il sistema calcio, che è lo specchio del sistema Italia, e quindi non mi pare ci si possa meravigliare di molto. Sono attesi qui a Milano, da dove trasmettiamo, sono attesi, sempre che le previsioni vengano confermate, una trentina di centimetri di neve dal tardo pomeriggio alla nottata. Poi domani ne parliamo di come sarà combinata la città, così a occhio e croce, pur avendo un allarme che arriva da almeno 48 ore, se non 72. Claudio ha chiamato da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io sono un interista, quindi lo dico contro i miei interessi, no? Riguardo la Juve parlo. Pronto, mi sente? Certo. Sì, mi scusa. Sono in una brutta zona, quindi ho sempre l'impressione che mi vada via il segnale. Io dico, per quanto riguarda Diego, basta vedere come giocava nel Werder gli anni scorsi. Lui giocava sempre con una punta grossa davanti, e lui come seconda punta. Quindi si poteva fare tranquillamente il 4-4-2 che era già impostato da Ranieri, con uno grosso e lui dietro. Non l'hanno mai provato, hanno fatto 4-3-3, 4-3-1-2. Io dico, provatelo 4-5 partite, poi vediamo, lo dico contro i miei interessi, ripeto. Ma è possibile che nessuno abbia visto come giocava gli anni scorsi? Perché per me Diego è un fuoriclasse, assoluto. Io mi ricordo che l'anno scorso ha portato fuori l'Udinese da solo, segnando 4 gol in l'Udinese. Sì, appunto, cioè, avesse detto Barcellona, con tutto il rispetto per l'Udinese. Anche il Milan però ha portato fuori, se ricordi, non solo l'Udinese. Sì, Milan in quella fase, da solo, io buttare fuori da solo, ho visto solo Maradona vincere da solo delle partite, perlomeno. Fuori classe assoluto, insisto, quando si arriva a 24-25 anni e si scopre un fuori classe assoluto, io personalmente non ci credo che sia un fuori classe assoluto. Poi ciascuno ha le sue opinioni, può darsi che la Juventus non lo stiano utilizzando nel modo migliore, ma è possibile, però mi domando, che alla Juventus non utilizzi nel modo migliore Diego, non utilizzi nel modo migliore Felipe Melo. È strano tutto questo, no? O non sarà piuttosto tutta una squadra che non funziona, che non è più lei, che non ha più lo spirito della Juve, e quindi per due nuovi è molto più difficile far valere le loro qualità, indipendentemente dai 5 metri più avanti o più indietro e da chi hai davanti. Lei parlava di un attaccante di peso. Non è che abbiano poco peso a Mauri e Trezeguet, però mi sembra di ricordare che in avvio di stagione l'attaccante più affidabile della Juve era Iaquinta, certamente, così come Chiellini era di gran lunga il difensore più affidabile e più solido. E questi due qui mancano, e questo è un problema, come è un problema non avere in mezzo al campo Sissoko. Insomma, anche queste attenuanti vanno riconosciute, magari inizialmente, quando poi il filotto di sconfitte è come questo, beh, insomma, le attenuanti è chiaro che diventano meno, assumono un peso meno significativo. Raffaele ha chiamato da Caserta, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Una premessa e un auspicio. Sì, allora, la premessa è che lei è un grandissimo intenditore di calcio. Perfetto, l'auspicio sarebbe che abbassasse un pochino la radio, Raffaele. Già l'ho fatto. Sì. È un auspicio che lei parlasse almeno una volta ogni tanto del grande Napoli che sta facendo adesso, di Mazzarri, sì, della squadra, un po' di spazio in più a queste squadre che stanno emergendo. Certo. Grazie. Grazie a lei, Raffaele. Per quello che riguarda ieri, posso dire che per il Napoli è fondamentale che gli regga questa fortuna, cioè se parliamo di ieri, perché ieri non ha quasi mai visto la palla, mi sembra di aver capito e realizzato, no? Ha ottenuto meritatamente un rigore nel bel mezzo della sfuriata iniziale del Chievo, perché il portiere del Chievo ha sbagliato il tempo dell'uscita, ha segnato il rigore, non ha rivisto la palla fin quasi all'ultimo minuto, salvo un paio di sporadiche robe qua e là, e lì ha piazzato un altro bel contropiede vincente. Sicché finché gli gira a questa maniera è certamente un grande Napoli. Speriamo che continui a girargli così. Certo, chi ha visto ieri Napoli-Chievo e pensa che il risultato finale è stato 2-0 per il Napoli, qualche problemino di identità potrebbe anche crearselo. Giuseppe ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Complimenti. Sì. Ascolti, io sono un tifoso interista, ma non pensavo né ora né mai di dover telefonare per parlare di Juve. Beh, non gliel'ha ordinato il medico, se ne fa piacere noi siamo qua. No, la prima cosa è la mia telefonata era in merito all'arbitraggio dell'Inter di ieri sera, ma lei ha già risposto a quell'ascoltatore che parlava dei due rigori non concessi, quando invece c'era un rigore nettissimo. No, invece no, quando c'era un rigore all'inizio per l'Inter e poi ce n'era uno eventualmente per la Lazio dopo. E quindi okay. Il risultato sarebbe cambiato. Sgombrato da queste schifezze, andiamo avanti. Io purtroppo devo fare un appunto sulla gestione di 2-3 anni fa della Juve. È stato esonerato in grandissimo silenzio un grosso intenditore di calcio che lavorava alle spalle di Secco. Questo signore, forse sono state fatte due righe su qualche giornale, è stato accusato che il suo lavoro non era portato a conoscenza della direzione, il book dei giocatori visionati in giro, e poi hanno fatto quegli acquisti. Quel ragazzo era veramente un intenditore, oggi è alla guida del Novara che viaggia in prima in classifica, mentre gli uomini che bene o male sono rimasti gli stessi di una volta stanno navigando nelle acque che ci ritroviamo oggi. Pensi che sono un tifoso interista? Sì, questo l'ha detto tre volte Giuseppe, quindi più o meno l'ho realizzato, l'ho messo a fuoco. Non lo so, non le so dire, non sono granché a corrente di questa vicenda, posso provare a far notare che altro è assemblare una Juventus, altro è assemblare il Novara, con tutto il rispetto per il Novara. Poi è difficile far bene, è difficile trovare giocatori adatti in ogni categoria, però magari insomma, non è detto che chi è bravissimo a livello di Novara sia bravissimo a livello di Juve, vale anche il contrario, certi celeberrimi allenatori strapagati sulle panchine di qualche squadra che lotta per non retrocedere, non so cosa darei per vederli, e viceversa, ma soprattutto questa mi sembra che sia, perlomeno per me, sarebbe una curiosità, uno sfizio che mi piacerebbe levarmi un giorno o l'altro, anche se so che non è possibile. Da Bergamo, Angelo, buongiorno. Buongiorno, buon Natale. A lei. Dunque, io non voglio essere polemico perché le polemiche, però essendo sotto Natale è bello. Lei ha detto prima, scusandomi se ho capito bene o sbagliato, che il Milan, cioè l'Inter, la Juventus ha sbagliato degli acquisti. Ma chi ha sbagliato degli acquisti? Cioè l'Inter, il Milan o la Juventus? No, Juventus. Ha sbagliato degli acquisti. Qualche anno fa, quando c'era prima di Calciopoli, la Juventus, qua dalle mie parti, lo chiamano il calzino, lo chiamano Scalfarot. Passava un giocatore che non era bravo, andava alla Juventus e diventava grande. Chissà perché, quando è scoppiato quella cosa lì, che non si sa più niente, la Juventus continua a sbagliare gli acquisti. E le altre squadre, bene o male, si sono rafforzate tutte. È possibile che la Juventus adesso non si rafforza più? Angelo, prova a rispondere nel suo stesso dialetto. Non sono davvero riuscito a mettere a fuoco il suo intervento, di cui la ringrazio, ricambio gli auguri e andiamo a Milano da Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, auguri anche da parte mia. Adesso io volevo essere un po' produttore nel senso, ma a chi è, cioè, sostanzialmente non si sono giocate delle partite di calcio. E vabbè, abbiamo vissuto, io ho vissuto lo stesso. Ah certo, ma tutti, per fortuna tutti. Cioè, no, per questo per dire che veramente secondo me dobbiamo darci una vera ridimensionata in Italia. Riusciamo a polemizzare anche se non si è giocata una partita di calcio, ma questo... è una cosa straordinaria di questo paese. Però Alessandro, sì, se con le stesse condizioni climatiche si sono giocate tutte le partite di calcio in Germania, in Francia meno una e in Inghilterra, beh, insomma, il sistema calcio italiano sarà organizzato peggio, no, di quello là, questo si sta dicendo. Sì, ma sai mi scusi, qual è il problema? Che noi avremmo la polemica ci sarebbe stata anche se avessimo giocato, perché gli spettatori si sarebbero lamentati di averci messo 4 ore andare allo stadio, 8 beh, ore si sarebbero indietro, lamentati, avremmo preso la neve. Cioè, capisce che noi siamo, cioè, la vogliamo per forza la polemica, indipendentemente da quello che lei dice che è giusto. Però questo è abbastanza vero quello che lei dice, però tenga anche conto che negli stadi di città come Genova, città come Firenze, città in cui gli stadi sono stati o costruiti o ricostruiti nel 90, ma non nel 1890, e cioè bensì meno di 20 anni fa. Beh, insomma, sono stati scoperti, cioè, se adesso di moda c'è l'oggettivo obsoleto, va bene, diamoli per obsoleti, diciamo che rispetto alla media europea sono stati da terzo mondo, quindi il sistema calcio non ci ha fatto una grande figura in questa domenica, poi che siamo alle prese nel paese con problemi leggermente più gravi, fin qui siamo completamente d'accordo e la condivido in pieno. Due notizie appena battute dall'Ansa. La prima è che Marino, allenatore dell'Udinese, sta andando verso l'esonero. La sosta natalizia è rinviata la partita. Leggo: non hanno portato il sereno in casa Udinese. Ormai il patron Giampaolo Pozzo e l'allenatore Pasquale Marino sono sempre più separati in casa. Il posto di Marino potrebbe essere preso da Gianni De Biasi, che firmerebbe un contratto semestrale, cioè fino a fine stagione. L'altra è che è stato arrestato stamane un capo ultra dell'Atalanta per aver contravvenuto al DASPO, cioè al divieto di avvicinarsi agli impianti sportivi durante le manifestazioni agonistiche. Il ripasso della storia: che cosa è accaduto un 21 dicembre di scopriamo che anno, con Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 dicembre 1977. A Liegi l'Italia batte per 1-0 il Belgio in amichevole. Decide un calcio di punizione di Antognoni al 73esimo. Nell'occasione il CT Biarzot fa esordire Paolo Rossi, un giovane attaccante che si è messo in mostra a suon di gol con la maglia del Vicenza. Rossi convincerà il CT a convocarlo per il mondiale dell'anno successivo in Argentina, dove lascerà il segno realizzando 3 gol. L'esordio di Paolino Rossi in nazionale qualcosa ha significato poi in prospettiva. Beh, è saltata una partita anche in Inghilterra, il posticipo è appena uscita anche questa notizia qua, il posticipo di stasera tra Wigan e Bolton è stato rinviato per l'inagibilità dello stadio dovuto alla presenza di ghiaccio intorno all'impianto. Tocca ad Andrea da Perugia, buongiorno. Buongiorno Gigi, le faccio i migliori auguri e complimenti per la trasmissione. Uh-huh. La chiamo da sotto la neve di Perugia per parlare di un paio di problemi del sistema calcio. Innanzitutto ero abbastanza d'accordo con l'intervento precedente, nel senso che dovremmo smetterla di polemizzare ed esasperare i toni nel sistema calcio, e questo è uno dei grandi problemi e dei mali del calcio italiano. Perché io, da tifoso della Fiorentina, mi viene da pensare per i tifosi della Juve, che sono così esasperati, ricostruire una squadra non è semplice, soprattutto se poi si è costretti a vincere. Io ricordo nel caso dell'Inter che fin quando è stata costretta a vincere ha sempre avuto dei gravissimi problemi di costruzione dell'organico, in più se si sbagliano acquisti eccetera. E per ciò che riguarda invece gli stadi italiani, cioè, siamo vittime davvero di abbiamo degli stadi, mi permetta il termine, da terzo mondo, nonostante gli anni, cioè nonostante ci siano stati poi i mondiali, li abbiamo ricostruiti davvero davvero male, e tutto questo non fa bene al calcio. Per ciò che riguarda le polemiche, io ho sentito 2 interventi precedenti sulla partita dell'Inter e sul suo una mail che le è stata spedita a proposito della sua faziosità, ma insomma non bisogna essere troppo, cioè, con un minimo di oggettività si capisce che l'Inter strameritava di vincere, perché cioè la tolga lo stra, meritava di vincere. Meritava di vincere, perché, ma non peraltro perché la Lazio non ha mai tirato in porta, io non lo dico da tifoso interista, e poi poi per ciò che riguarda la Juventus, anche lì, insomma, cioè, davvero ha detto bene lei, la Juventus le ha detto molto bene chiudere il primo tempo in svantaggio di un solo gol, quindi esasperare i toni, certo. Tutto ciò veramente ha portato il calcio italiano ad un livello davvero bassissimo, poi... ci lamentiamo che gli stadi sono sempre più vuoti e frequentati da persone sempre un po' più imbarbarite. Grazie Andrea, grazie Andrea, telefonata natalizia direi, no? Ma è molto intelligente, intendiamoci, è ampiamente condivisibile di stampo, giustamente natalizio dato il periodo. A proposito di maltempo, trovo che Renzo Olivieri, presidente degli allenatori, come sempre col suo non dialetto per carità, ma insomma con la sua lingua di San Miniato, trovi sempre il modo giusto, in sintonia con questo ascoltatore, di raffigurare le cose. Certo non si è fatta una gran figura, ha detto Olivieri, ma penso che gli stadi vadano rimodernizzati, che i lavori, e peccato ancora, ha aggiunto, che i lavori fatti non un secolo fa, ma solo qualche anno dietro, non siano stati adeguati. A proposito di prese di posizioni o di definizioni felici, certo non si è fatta una gran figura di Olivieri, beh, io ne ho trovato un'altra, secondo me deliziosa, di Ermete Realacci, che a proposito dell'idea di un gran premio di Formula 1 a Roma, idea che sta prendendo sempre più corpo, l'ha definita provinciale. Ecco, io la trovo che sia il modo, che sia l'etichetta ideale questa. Secondo Realacci è provinciale l'idea di organizzare un gran premio di Formula 1 a Roma, e la motivazione è questa: l'idea che Roma abbia bisogno di un gran premio per comunicare al mondo che c'è è un'idea di Abu Dhabi, che può andare giusto bene per l'appunto per un emirato arabo. Se potessi metterci la firma sotto questa dichiarazione la metterei con grande entusiasmo. Gianni ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi ricollego un attimino alle telefonate che hanno già fatto sulla Juve, sulla dirigenza, ma giusto per fare un esempio di quello che penso. Io sono convinto che adesso si parla di Juve in modo molto tragico, ma giustamente, i risultati non sono positivi. Però fino a qualche mese fa non mi sembrava che ci fosse tutta questa crisi, e nessuno ne parlava, nessuno parlava di pieno, di merito, ovviamente era tutto bello, tutto a posto. E che magari si avvicini un po' al mondiale, qualche calciatore inizia a risparmiarsi, forse quello sui brasiliani, lo sappiamo che prima viene il Brasile e poi viene tutto il resto. E secondo me questo influisce molto sulle ultime partite vinte, secondo me. Poi su quello che riguarda la Juve, che ha detto quel signore, prima andavano i giocatori, erano tutti fenomeni perché c'era Tagliafico, mi sembra di attaccare il cappello sempre nello stesso chiodo, cioè non è che sia sempre quello come giustificazione, mi sembra a caso, in questo caso non esiste proprio un collegamento tra le due cose, non è proprio fuori discorso. Va bene Gianni, grazie anche del suo intervento. Sentiamo come Mourinho ha commentato. Mourinho ieri sera mi è sembrato ai microfoni insolitamente festoso, evidentemente l'idea di scappare da Milano e dall'ambiente dell'Inter, che lui sembra non sopportare più oggettivamente per 8-10 giorni, ho l'impressione che l'abbia discretamente galvanizzato. Sentiamo Mourinho. Stiamo bene, abbiamo 9 punti di vantaggio con la Juve, abbiamo 5, 7, 8 con il Milan, e anche questo è positivo, e è un bel momento per fare una settimana tranquilla e dopo tornare a lavorare di nuovo e pensare in campionato, e ovviamente pensare a una doppia gara di Champions che sarà sicuramente fantastica contro un grandissimo equipo come il Chelsea. Da Reggio Emilia ha chiamato Gino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Buongiorno. Ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale, le volevo parlare di Milan. Sì. Dunque io volevo dirle che il vecchio glorioso Milan era nato sulle seguenze di un grande gruppo storico che veniva dal settore giovanile del Milan. I vari Baresi, Filippo Galli, Tassotti, vabbè, che veniva dalla Lazio, Costa Curta e viceversa. Maldini. Mi sembra invece che il settore giovanile del Milan in questo momento sia piuttosto trascurato. Trascurato non le so dire, certamente non sta sfornando giocatori all'altezza di quelli, ma non è che a ogni generazione salta fuori un Paolo Maldini o un Costa Curta. Adesso ci sono gli Abate. Una vecchia intervista di Galliani che diceva che i campioni conviene comprarli già fatti. Sì, questa è stata una filosofia per molti anni della società, però mi sembra che adesso la società abbia ridimensionato un pochino i suoi programmi, i suoi budget e quindi credo anche le filosofie, tant'è vero che gli Abate, gli Antonini stanno cominciando a trovare posto in prima squadra, sia pure magari un po' a intermittenza. Credo che siano un po' cambiati i tempi rispetto a quelli alla citazione che lei ha fatto e che è correttissima tra l'altro. Io sentirei un frammento, perché è breve, di un allenatore che sta facendo non bene, ma stra bene veramente, al suo ritorno in Serie A, che è Sarse Cosmi. Credo che sia stata una partita bellissima da parte nostra, dove abbiamo concentrato tante qualità che avevamo proposto solo in maniera episodica, insomma. Oggi c'è stato tutto e siamo felici, al di là della retorica del Natale da passare insieme. La retorica del Natale, grande, grande Serse, che la cui voce invecchiando somiglia sempre più a quella di Sandro Ciotti, con la differenza che Sandro Ciotti ne fumava 40 al giorno di americane senza filtro. Cosmi non ha il vizio e quindi è curioso questo. Gianni dalla Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Benissimo, allora complimenti anzitutto per la sua trasmissione, che è una trasmissione che aiuta a capire il calcio e a parlarne più che altro. Un breve commento personalissimo per quel che riguarda la Juventus di ieri sera. Una partita, secondo il mio modesto parere, che la Juventus ha giocato anche gli altri anni. 4-5 anni fa, 3 anni fa, è capitato alla Juventus di giocare in casa con una provinciale in quel modo. Solo che 4-5 anni fa, 3 anni fa, 6 anni fa, mi dica lei, l'avrebbe vinta 2-1, perché gli episodi sarebbero stati questi. Il rigore a una provinciale, a Torino, non sarebbe mai stato concesso. Mentre invece un rigore a favore della Juventus all'ultimo minuto su una nota da film di Del Piero sarebbe stato concesso. Punto. Gianni, vorrei darle torto. No, perché è così. Estenderei il discorso anche alle altre due grandi che tradizionalmente e ciclicamente, no, hanno goduto e godono ciclicamente, ripeto, di questo genere di trattamenti. Più in alto sei, più questi trattamenti ci sono. Ho detto domenica scorsa che queste cose mi sembrano non sparite, ma certamente molto ridimensionate in questa stagione, e questo va a tutto merito degli arbitri attuali e del sistema attuale, che è imperfetto, ma che rispetto a quello che lei ha ricordato già è molto, ma molto più avanti. Carmelo Lauricelli in regia, grazie. Franco Piantanida in redazione, grazie anche a lui, buon pomeriggio.